sono le 9, sono pronto per andare altrove. Quello che danno alla televisione non mi duole, è pieno di pubblicità e di falsità. Discorsi obsoleti e vecchi come la Carrà. La cosa migliore che si può fare è cambiare canale, cazzeggiare, provare a scappare. Continua fuga da tutto ciò che fa male, mentre uscendo trovo gente in getta solo ad insultare. Tutti vestiti preciso, quelle espressioni sul viso, come robot elaborati da vari standard ISO. Una società malata con i suoi difetti, infetti abbiati che si credono pure perfetti. Dove il clero maneggia denaro, dove il popolo ignaro, prega sempre. Qui con Stars proviamo a cambiare le cose, ma l'unica cosa che accade è che non cambia niente. Il mondo che vorrei, un fioro tondo che è, perché il nostro è così piatto che è il sogno di ogni DJ. Ci si schiava da soli, la fossa, la cava è profonda come la gola della Lovelace. Vivo all'apparenza, cuore del consumo, e l'essenza, quella si è ridotta a un profumo. Tempi stupefacenti, se è chiaro solo parole, se cerchi fatti, fatti un giro per San Patrignano. Sballi di gruppo nell'eccesso, fra, ogni drink è giusto solo se è corretto. Qua si beve in qualsiasi momento, tanto da invertire l'ordine causa effetto, nel senso che prima sei sotto effetto, poi parti, ti schianti e così inizia la causa contro di te. Perché si sa che è meglio assumere droghe anziché le responsabilità. Sfrutto il mio diritto di votare, non a seggio elettorale ma da fisso cellulare. Ho visto nascere grandi fratelli, isole, persone comuni rendersi ridicole. Se quando sono nato stava crollando il muro, un ventennio dopo ce n'è uno per ognuno. Guardo YouTube e non mi sento diverso dalla gioventù dipinta da studio aperto. Ma una cosa l'ho capita e una cosa te la spiego, è come un codice binario, 6-1, 6-0. Ma voglio un mondo di vinti, potere agli sconfitti, la caduta dei recinti, la ribalta dei respinti, volare ad alte quote sopra leggi idiote, e poi come tanti Joker bruceremo banconote. Nel mondo che vorrei scorre tutto di getto, il mondo che vorrei non è come questo. Ricostruisco il mio mondo manco fosse Messi, se aggiungo pezzi su pezzi come dentro un Tetris. Risvegliati dal mio incubo peggiore alla ricerca di ogni cosa che mi faccia stare bene. Risolvo casi su casi come Saving Grace, rimango sempre in pista come Speed Race. Ora niente finzione su sto cazzo di bitone, Starks esattori, questa è la nuova religione. Sai che non vengo a portarti dei doni, solo soluzioni tipo assi di bastoni, scorie radioattive che mi incendiano le mani. Ora siamo come banditi più degli assalti frontali, scene perverse con soluzioni perse dentro foreste alla ricerca di quell'oro più di rubber. Intrappolati dentro questo volo charter, fingiamo guerre come